24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Guarda, io sto lavorando per il bene della Corea, ma anche per il bene dell'Italia, perché noi all'estero devo dire che siamo molto amati. Sapete chi è che parla? È il senatore, sempre lui, il nostro mito di questi giorni, evidentemente. Antonio Razzi, quello veicolare, Antonio Razzi, è la notizia del giorno. Non sono andato avanti dopo che ho letto questa notizia sui giornali. Antonio Razzi è partito per la Corea del Nord. Razzi in Corea del Nord, e non è un titolo minaccioso, Razzi in Corea del Nord per portare la pace in Corea. È così, cari italiani, vi voglio accogliere così. Se c'è questa notizia, perché non possiamo pensare che ci sia speranza per salvare tutto nel mondo, l'Italia, l'economia, il lavoro? E se Razzi porta la pace in Corea del Nord, siamo davvero a posto, siamo tranquilli, siamo sereni. Sono le 6:33 minuti, questo è 24 mattino per la penultima puntata, poi ci fermiamo un po' per l'estate. Voglio salutare Alessandro Longoni, anche oggi in redazione, qui in tutto luglio. Sì, non ce la contraffina, Mila, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pirla così, lavori in radio, e il mondo va così. Vabbè, pazienza. Dicevamo, Carmelo Lauricella in regia, e poi basta. Poi voglio salutare Massimo De Manzoni, che è il vice direttore di Libero. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Eccoci, oggi saremo io e te, soli. C'era, avevamo chiamato la Moretti. La Moretti ci ha mandato ci ha mandato un messaggio. Sai che alla Camera stanno lavorando, ha detto abbiamo finito alle 4 di notte, non lo so. Appunto, faceva tutto un dritto, era facile. Faceva? Tutto un dritto. Infatti, no, ma all'inizio no, devo dire, ho ricevuto questo messaggio che posso. Dice, carissimo, mi scrive Alessandra Moretti, onorevole Moretti del PD, siamo in aula, ma questo a tarda notte, non sarò molto lucida domani mattina, questa è tipo alle 3 di notte, una roba del genere. E sì, ha detto all'inizio, ha detto se ce la faccio il dritto, ma proprio non, no, vabbè. Vabbè, Massimo De Manzoni, che dobbiamo fare? Siamo così, ce la chiacchieriamo. Allora, apriamo il Parlamento per l'appunto, perché alla Camera stanno lavorando in questo momento. Il caffè volentieri a tutti quanti. E sono andate avanti tutta notte, poi dopo si dice alla Camera non si lavora. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Sì. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Allora, andremo un po' tutti in vacanza. Tu, Massimo, vai in vacanza tra poco? Sì, faccio una settimana, la prossima non la faccio. Una settimana, ecco, perché... No, metto subito l'argomento vacanze, perché poi parliamo di Razzi, poi voglio sapere il tuo parere su Razzi. Ma oggi Libero fa una di quelle cose che già si è vista in passato. I giudici e le vacanze. Giudici già in vacanza fino al 15 settembre. Ecco la vera casta, perché i parlamentari stanno lavorando in questo momento. Hanno lavorato tutta notte. E invece i giudici in vacanza, non tutti i giudici, No, quelli della, delle, come si chiamano, sezioni feriali, quelli che devono pronunciarsi su Berlusconi, ci sono. Non solo su Berlusconi, Poi quelli per le emergenze, però i processi sono bloccati per quasi 2 mesi. Abbiamo un arretrato di 6 milioni di processi. Non sembra proprio un'idea brillante ogni volta chiudere i tribunali per 2 mesi. Sì, ma effettivamente non si capisce bene quale sia il motivo per cui si debbano chiudere. Cioè, adesso al di là del fatto perché il giudice è una casta e vuol far 2 mesi di ferie, io non credo che sia così. Cioè, poi lo sai, portano avanti anche le pratiche, cioè se è una pratica urgente uno la può portare avanti anche da casa, No, le pratiche urgenti vanno avanti. Ma le udienze no. I processi si fermano. In un paese che ha quasi 6 milioni di arretrati di processi, fermare tutto per 2 mesi su 12, che poi è una finzione, perché poi bisogna vedere sotto Natale, sotto Pasqua, che cosa succede. Ma comunque questi sono 2 mesi, 51 giorni, sono 7 settimane di blocco totale dell'attività normale, sì. Rimane in piedi solo quella d'urgenza. Sì. Beh, a me sembra un'enormità. Questa sì, soprattutto è un po'... per persone che sono dipendenti dello Stato e che però godono di stipendi molto maggiori degli altri dipendenti dello Stato e di uno status anche maggiore degli altri dipendenti dello Stato e hanno più ferie degli altri dipendenti dello Stato. No, questo fatto. A casa mia si chiama privilegio, poi se vogliamo dire che non è così, ma a casa mia si chiama privilegio. No, no, ma infatti è una vergogna. Io infatti domani vado in ferie e torno il 2 settembre. No, ma, è vero. Sì, ma tu lavori nel settore privato, è vero, tu puoi è fare vero. Quello che vuoi. Ma no, ma poi devo d'accordo con il tuo datore di lavoro, ma poi devo chiarirla. Devo chiarirla, siccome mi criticano, mi dicono già, ma come un mese di vacanze? A parte che non farò un mese di vacanze, poi è così, i palinsesti radiofonici, chi mi sostituirà deve fare il mese pieno, agosto, non è che si può, i palinsesti radiofonici non è che sono come la stessa cosa di, non so, uno fa, il conduce il mese di agosto, io sarò qua, fuori, dalla porta, dai, fatemi entrare, ma poi chi se ne frega. Vabbè, comunque, allora, la questione politica che sta emergendo in questi momenti è: si lavora la Camera perché c'è un ingorgo totale. Questo è per esempio il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, il grande ingorgo in Parlamento. Massimo, cerchiamo di spiegare cosa sta succedendo. Allora, quelli del Movimento 5 Stelle, facciamo sentire il capogruppo alla Camera Nuti, protestano perché, facciamolo sentire, vogliono fare di tutto per far slittare un provvedimento, poi spiegheremo il perché. Noi chiediamo da settimane di spostare l'esame del disegno di legge costituzionale sulle riforme a settembre e noi adotteremo qualunque provvedimento, qualunque atteggiamento per far sì che questo slitti a settembre. Lo abbiamo ribadito ieri in capigruppo, lo abbiamo detto. Insomma, vogliono fare slittare questo disegno costituzionale. Il motivo, lo spiegate anche voi di Libero oggi, Massimo, è che cosa è stato fatto? È stata messa una corsia preferenziale a questo disegno di legge costituzionale per far nascere il famoso comitato dei 42 che dovrà cambiare la Costituzione dopo le indicazioni dei 40 saggi e 35 e 7 scribi, ecco. Perché così serve per far slittare che cosa, mettendo davanti questo? La discussione sul finanziamento pubblico ai partiti. Eccolo lì, è così, eh. C'è anche questo aspetto, sì. C'è anche questo. L'aspetto collaterale del fatto che passano prima i disegni sulle riforme e che slitta quello sul finanziamento ai partiti. Ma dai, chi l'avrebbe mai detto? Però posso dire che sì. Il finanziamento pubblico, così come lo stanno concependo, è una tale presa in giro rispetto ai dati di partenza, che anche se slitta non è un grave danno, nel senso che non cambierà molto dal nostro punto di vista. Come tu sai, perché ci siamo conosciuti in una trasmissione in cui di questo parlavamo, sì. Io sono assolutamente contrario a qualsiasi forma di finanziamento del partito, anche la più piccola. Ma quello che stanno facendo non è l'abolizione del finanziamento. No, lo sostituiscono, il 2 per 1000, una serie di... Appunto, una serie di agevolazioni, poi sì, slitterà al 2017, eccetera, eccetera. Cioè, stanno facendo slittare una... quella che è già una presa in giro, addirittura c'è chi ha calcolato che col nuovo sistema i partiti avrebbero più soldi di prima, per questi due, forse è quasi un bene che sì. Comunque vogliamo tornare alla notizia del giorno, Razzi in Corea del Nord, sarebbe un bel titolo, anche se Antonio Razzi in Corea del Nord, ma vi rendete conto, ci abbiamo qualcos'altro di Razzi, qualcosa che dice, non so, addirittura conosce, lui dice di conoscere Kim Jong-un, il presidente a Corea del Nord, e si parlano in tedesco, ma io voglio crederci perché sentiamolo, Razzi. Lunedì nel mio ufficio abbiamo un incontro con la delegazione del Milan perché Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, essendo giovane, lui ha fatto l'università a Berna, dove io ho, diciamo, in Svizzera ho vissuto. Quindi lei conosce il leader della Corea del Nord? Sì, l'ho avuto il piacere di conoscere, parliamo tedesco insieme. Ma ti rendi conto, Massimo, Kim Sol-un, non Kim Jong-un, Kim Sol-un, l'incontro col Milan a Berna, ma dove, ma cos'è, un delirio puro di Razzi? Ma... sì, è assolutamente incredibile, il nome non è quello. Sì, è Kim Jong-un, Kim Sol-un, ma chi è Kim Sol-un? Ma poi incontrerò la delegazione del Milan, ma cosa c'entra il Milan con Kim Sol-un e Razzi, mamma mia. Vabbè. Personaggio, era abbastanza. Pensa all'arrivo in Corea del Nord, adesso sarà a Pyongyang, lo attendono con le bandiere, delegazioni, lì fanno le cose in grande. Sì, sì, c'è l'esercito schierato. Certo. Sono senatore della Repubblica Italiana, Antonio Rada. Razzi loro! E questo è Razzi loro in Corea del Nord. No, questa... il dramma è che è veramente un senatore della Repubblica Italiana, per cui se lo possono vendere davvero. Sì, sì, sì. Conosco Kim Sol-un. Allora, prima di parlare di politica, Massimo, io vorrei dare questa notizia che ho trovato sul Quotidiano Nazionale, e secondo me domani su Libero, adesso non è che voglio anticipare, non è che voglio suggerirvi, ma il Quotidiano Nazionale tira in ballo Cabobo, te lo ricordi? Mada Cabobo, lo ricordo tutti gli italiani, quello che ha ucciso a picconate tre persone a Milano, perché la notizia sparata in prima pagina del Quotidiano Nazionale, quindi Il Giorno eccetera, è questa: indiscrezioni per gli psichiatri, Cabobo è pazzo, incapace di intendere e volere, il che vuol dire tecnicamente che potrebbe anche non mettere piede in un'aula di tribunale, non essere giudicato, perché questo prevede il codice per chi è incapace di intendere e volere, forse prosciolto per vizio mentale, ovviamente dovrà andare nel caso in un ospedale psichiatrico. Questo potrebbe succedere, fece una strage col piccone, Cabobo è pazzo, forse prosciolto. Cioè, se questo dice il Giorno, non lo so, sì, poi sì, andare sì, ma guarda che è plausibile. È plausibile, che... sì. Vabbè, intanto uno che fa quello che ha fatto Cabobo, tanto sano di mente, probabilmente non è. Questo certo. La giurisdizione italiana prevede queste cose qui. Il resto, se non vado del tutto errato, anche degli italiani che hanno commesso delitti efferati, mi pare Stevanin non sia finito in carcere, se non per un breve periodo, per esempio, quello che uccideva le prostitute, le faceva a pezzi, le nascondeva nei suoi campi, ma che sia finito a Castiglione delle Stiviere, dove c'è appunto l'ospedale, sì, l'ospedale psichiatrico. Sì, di contenimento comunque, fatto da... Ma io non è che avessi moltissimi dubbi che finiva così. Sì, diciamo... Vediamo se finiva così davvero. La verità è che nel caso Cabobo, se vogliamo dirla un po' grossa, alla sbarra dovrebbe finirci anche qualcun altro, visto che è una persona che era chiaramente un violento, aveva già compiuto atti violenti, che aveva chiaramente non aveva diritto d'asilo, perché aveva fatto una domanda che era già stata rigettata, e il ricorso era strumentale, per cui il problema di Cabobo è che non doveva essere in Italia, doveva già essere stato espulso, come era stato decretato in un primo momento, quindi non doveva neanche essere in condizione di fare quello che ha fatto. Sì, che poi se vogliamo vederla così doveva essere limitato, perché se è espulso tu dici sì, lo mandiamo nel suo paese, ma una persona così pericolosa, in teoria in un sistema che funziona dovrebbe essere... non dico limitata preventivamente, ma voglio dire, aveva già commesso violenza, aveva già aggredito, quindi. Comunque il dato di fatto è questo. No, ma io non, perché già subito mi scrive qualcuno, non c'è da scandalizzarsi, se è matto, se è pazzo, se è incapace di intendere di volere, anche per lui va applicata la legge, ma infatti va applicata la legge, mica bisogna dire che per Cabobo ci vuole qualcosa di diverso rispetto agli altri. Però fa un po' impressione leggerla così, non so, metterla... Certo che fa impressione, come tutte le cose che ti portano a dire ma come, perché la reazione emotiva, questo deve morire in carcere, e effettivamente anche solo per proteggere altre possibili vittime. Ripeto, io vicino a Cabobo invece lo vorrei vedere processato intanto per capire esattamente come sono andate le cose, perché così mi pare un po' troppo facile che non passi neanche dal via, non passi neanche al tribunale. E accanto a lui, almeno in astratto, dovrebbe esserci qualcun altro, secondo me. Da qualcun altro chi? Qualcuno... Ma te l'ho detto, il sistema, nel senso, cioè il sistema non è chiaro che è troppo astratto, ma insomma in questo meccanismo che ha portato Cabobo a poter fare quello che ha fatto senza impunemente, è un meccanismo che non funziona e quindi quantomeno va rivista l'applicazione di certe leggi. Non è possibile che uno che è già stato espulso, cioè in automatico, possa fare una serie di ricorsi che di fatto annullano l'espulsione. Anche perché quando l'espulsione le vogliono fare, l'abbiamo appena visto con il caso Shalabayeva, le espulsioni si fanno. Per cui, allora, una bambina di 6 anni l'abbiamo espulsa e non riusciamo a espellere un energumeno che aveva già dato prova di essere pericolosissimo. No, ma questo sì. C'è da dire che sono anticipazioni del giorno, poi chissà, sono indiscrezioni, ma gli psichiatri che stanno facendo le perizie psichiatriche pare abbiano già decretato essere incapace di intendere e volere. Allora, Massimo De Manzoli, vice direttore di Libero, attendi un attimo, ci sono le informazioni sul traffico, la nostra segreteria telefonica e poi rientriamo. Oh, ci sono delle indiscrezioni ancora su Razzi e li ho trovate oggi sul Corriere. Razzi in Corea del Nord. 24 mattino. Ho proposto il finanziamento pubblico ai partiti. Definirli porci mi sembra elogiarli. Questa gentaglia proprio, che più gentaglia non si può. Ci sono onorevoli che vengono alla radio da lei a parlare, ma sì, se no abbiamo il finanziamento, va in mano alle lobby, vanno in mano. Ma non si vergognano sempre di dire stronzate a non finire. Il finanziamento deve essere abolito. Invece così è... proprio una tavola apparecchiata per tutti i porci possibili e immaginabili che ci sono. O si fa con le buone, cari italiani, o li spaziamo via con le cattive. Ma quale forconi? Bisogna fucilarli, che gentaglia lì, fucilarli. 11 milioni di prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza a Padova. Solo a Padova, ricordati, solo a Padova. A Roma altri sequestri, ma quando parliamo di questa Cina, vengono dalla Cina, non sono prodotti in Italia, vengono dalla Cina, e noi pagare le tasse per mantenere questi predatori, siamo stufi. Ma come si fa a proporre una legge contro l'omofobia? Ma l'omofobia che significa? Allora dovremmo fare anche una legge per il reato contro la claustrofobia, contro l'agorafobia. Ma insomma, un vocabolario ce l'hanno questi parlamentari a portata di mano, o no? E i sindacati non fanno altro che difendere i lavativi, i lazzaroni e gli extracomunitari. C'è gente che lavora, ma cosa lavori a fare? Stai a casa in malattia, stai a casa in malattia. È una schifezza, il sindacato ha rovinato il mondo del lavoro. Tra extracomunitari, lazzaroni, l'Italia sta fallendo. Vabbè, queste sono alcune delle voci della nostra segreteria telefonica. Massimo, sempre più arrabbiate, Massimo De Manzoni. Sei arrabbiati, la gente, insomma. Anche tu dici in autunno, come Casaleggio, come Di Pietro, come Del Rio, attenzione, perché... succedono, rischiamo, non so, casini. Non penso, perché è vero che c'è molta rabbia, molta, però c'è poca organizzazione, forse per fortuna. No, ma per negli fortuna. Negli anni passati che abbiamo vissuto c'era un altro clima, forse non c'era tutta questa disperazione per certi versi, perché in realtà non c'era. Io li ho vissuti e non era questa prospettiva, questo scoramento nei confronti del futuro, non c'era. No, adesso invece la gente, effettivamente, prima magari c'era più ideologia politica, esatto. Sbagliata, esatto. Ovviamente da parte di qualcuno, invece adesso è proprio arrivare alla fine del mese il problema. Quindi queste voci qui spesso sono riflettono più frustrazione che una rabbia che si possa tradurre in qualcosa di concreto, un movimento. Poi ragazzi, cioè, è chiaro che tutto questo lo si dice in una prospettiva, nel senso che ci si augura che effettivamente poi ci sia una piccola inversione di tendenza ad un certo punto, sì, sì. Sia perché un po' di ripresa in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti c'è, e tradizionalmente poi varca l'oceano, arriva anche qui, sia perché ancora una volta, visto che hanno rinviato tutto a settembre ci si augura che qualche sì, provvedimento poi di una certa efficacia lo prendano. Ha rinviato tutto in autunno, tutto in autunno. Se veramente tutto continuasse così, beh, allora quello che può succedere è... Chi lo sa? No, intanto devo dire, ecco la novità su Razzi, io non ne esco, Razzi in Corea del Nord, oggi il Corriere della Sera fa un articolo su questo, attenzione, Massimo De Manzoni, ma ha pure mentito, perché leggo sul Corriere, con Kim Jong-un, che poi lui chiama Kim solo, non ho mai parlato a quattro occhi. E anche il Corriere gli chiede, ma come in un'intervista a Rete 8, che è quella che abbiamo mandato, lei ha detto di averlo incontrato, che ha studiato con lui a Berna, avete parlato in tedesco? Sì, ci siamo visti, ma non a quattro occhi, non sono riuscito a fargli il discorso che volevo, è un po' difficile, non ho capito se il discorso è difficile, se è difficile vederlo, non si capisce, il mistero di... Ma Razzi, lo vedrà Kim Solun, come lo chiama lui, a Pyongyang, oppure gli fanno fare un po' un giro da turista, secondo te, e poi lo rispediscono sul primo aereo in Italia? La seconda che hai detto, purtroppo ce lo rispedisco. Purtroppo non se lo tengono, Razzi, questa è la verità, anche se lui chiude l'intervista al Corriere, dice un paese di persone socievoli e per bene, e vabbè, nulla... Non lo mettiamo in dubbio, non sono certo i problemi coreani. Se perdi un portafoglio con 100 euro, lo ritrovi e ce ne sono 200. Ma 100 euro in Corea del Nord non li hanno visti, poveretti, neanche col binocolo. Vabbè, comunque. Antonio Razzi. Volevamo far sentire la camera. In questo momento la camera... Oh, sono le 6.54, siamo in diretta, non è un'invenzione. Alla camera succede questo, stanno lavorando da tutta notte. Grazie. Ecco, abbiamo beccato la fine di un discorso. No, adesso parlerà qualcun altro, perché stanno lavorando, ci sono provvedimenti dopo il decreto del fare, i disegni costituzionali. C'è l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle e c'è Letta, ti voglio lasciare su questo, Massimo, Letta che ieri ha parlato a quelli del PD, a tutti i deputati, oggi doveva farlo con quello del PDL ma è rinviato. Letta ha detto smettetela di fare i fighetti per un applauso o per la glorificazione su Twitter, basta fare i fighetti. A chi si riferiva secondo te? Si riferiva alla Moretti, che tu non hai mai portato in trasmissione. Cioè, ti è rimasta qui questa, eh? No, si riferiva, cioè, effettivamente questi sono, cioè, quello che fanno... Secondo me è un po' più a Renzi, magari, si riferiva, no? Ma sì, c'è Renzi, c'è una situazione pazzesca per cui basta un articolo di giornale per buttare nella disperazione tutto il partito, come è successo ieri con Repubblica, che ha aperto con quella cosa di Saviano sulla legge sul voto di scambio, che sono andati tutti in tilt, avevano già tutti gli accordi approvati, votati e tutto quanto, si alza uno e dice no, ma così non va bene, perché? E sono andati nel panico. Peraltro il meccanismo dell'informazione, siccome l'avevo letta il giorno prima sul Corriere della Sera, Luigi Ferrarella, che è il cronista di giudiziaria numero uno in Italia, aveva scritto la stessa cosa in 30 righe. Poi la Vezza Repubblica ieri in prima pagina con l'articolo di Saviano e le truppe cammellate si sono mosse per la mobilitazione. Esattamente. Questa... Quindi di quello ha paura Letta. C'è un partito che non è più un partito, che quindi al primo stornio di fronte può andare in tilt. Lo stornio di fronte avverrà magari il 30 luglio. Oggi voi su Libero scrivete che Berlusconi ha preparato il discorso forse per, in caso di condanna, per... Sì. Come dire, sì, l'ha preparato, ma non quello che diciamo anche è che non è detto che lo leggerà, nel senso che lui sta preparando le due eventualità nel caso di condanna. Io continuo a rimanere convinto che in caso di condanna i problemi appunto arriveranno dal PD, che non riuscirà a reggere il colpo. C'è però vero che Berlusconi sta consultando i suoi falchi colombe, diciamo così, e che a quanto risulta a noi avrebbe già anche proprio pronto il discorso, la giustificazione in base alla quale, cioè se sceglie di far saltare il banco, si rivolgerebbe agli italiani per spiegare perché, perché lo fa. Non allora, è detto che, loro, che quel discorso lo sentiremo mai. Aspetteremo anche intanto la sentenza. Io ti ringrazio, appunto. Massimo De Manzoni, credo che non ti sveglieremo più per tutte le vacanze fino alle 6:30. Sei felice? Buone vacanze. Grazie, ecco, una risposta lapidaria che era come dire non vedevo l'ora, un po' come Razzi in Corea del Nord. Grazie Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Ci fermiamo per il giornale radio e rientriamo subito dopo per la rassegna stampa. Lunedì nel mio ufficio abbiamo un incontro con la delegazione del Milan perché Kim Son-un, il leader della Corea del Nord, essendo giovane, lui ha fatto l'università a Berna. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:15 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, siamo sempre in diretta, siamo pronti a leggere i giornali appunto con voi, per voi, se vi siete svegliati ora do l'ultimo, il penultimo urlo prima delle vacanze, razza di debosciati, forza, svegliarsi, andare a lavorare per chi il lavoro ce l'ha ovviamente, e non tutti, ahimè e drammaticamente, d'Italia, comunque... Oggi di cosa parleremo più avanti? Beh, avremo ospite un sindaco che si è messo in mente di fare una raccolta di firme per una legge popolare per riaprire le case chiuse. Oh, proposta di legge popolare, bisogna raccogliere firme entro settembre, non so quante adesso è, e comunque ce lo dirà il sindaco di Mogliano, in provincia di Treviso, e ce la farà? Vuole fare questa iniziativa, riaprire, abrogare la legge Merlin, questo è. E poi parleremo dei 100 anni di Erich Priebke, che stanno creando, suscitando polemiche a Roma. Condannato all'ergastolo in via definitiva per la strage delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke lunedì prossimo compirà 100 anni, ci sono polemiche, modo anche per confrontarci con la nostra storia, una parte della nostra storia con la quale sembra non riusciamo a venire a patti, e ogni tanto ritornano queste polemiche, soprattutto su Erich Priebke, pagato dalla comunità, si dice, la sua scorta, i suoi arresti domiciliari. Ci sarà con noi l'avvocato di Erich Priebke, avremo anche l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico per parlare di questa vicenda che sta suscitando polemiche. Oggi anche due articoli di giornale, sia su Libero sul Giornale, su questa storia. Più avanti tutto ciò, ora andiamo a sfogliare i quotidiani. In questo giovedì 25 luglio, intanto i titoli oggi sono diversificati, ogni quotidiano fa la sua scelta. Il Sole 24 Ore apre sul primo sì al decreto del fare, meno vincoli per l'edilizia, questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera invece il grande ingorgo in Parlamento, stanno lavorando a tutta notte alla Camera, stanno lavorando anche in questo momento, si può sentire forse l'audio della Camera, stanno lavorando, no, in questo momento la seduta è sospesa, ma comunque stanno lavorando e sono andati avanti tutta notte per i vari provvedimenti. Repubblica, voto mafioso, la legge cambierà, questo è il titolo di prima pagina. Per il Fatto Quotidiano invece ancora il Kazakistan, un altro schiaffo al governo italiano. La Stampa, Letta al PD, travolti se fallisco. Il Messaggero, Camera bloccata, caos, riforme. Il Giornale, messaggi in codice, tensioni sul governo, la lettera di Napolitano ieri al Corriere. Libero, la vera casta, giudici già in vacanza fino al 15 settembre. Insomma, questi sono alcuni dei titoli. L'Unità invece, Letta al PD, basta giochini. Questo l'apertura dell'Unità, vedremo altre aperture se c'è spazio. Intanto voglio partire da qualcosa che abbiamo già anticipato alle 6:30. Antonio Razzi, senatore oggi del Popolo della Libertà è a Pyongyang. Razzi in Corea del Nord, che non è un titolo minaccioso, è così. Io non ci volevo credere. Lui di recente aveva detto sì, aveva anche incontrato gli ambasciatori di Corea del Nord e Corea del Sud, perché fa parte della commissione esteri. Pagina 10 e 11 del Corriere, la mission impossible dell'onorevole Razzi. Porto la pace in Corea, l'onorevole Razzi. E si chiede il Corriere con Renato Benedetto, può Antonio Razzi riuscire dove l'ONU e la diplomazia di mezzo mondo finora han potuto poco? Mettere pace tra le due Coree per rientrare e per far rientrare la minaccia atomica? Ci sono spiragli di dialogo. Così il senatore del PDL, ex responsabile, segretario della Commissione Esteri, ieri sera è partito alla volta di Pyongyang. In agenda un incontro col leader Kim Jong-un, che noi abbiamo sentito dalla stessa voce di Razzi, lo chiama Kim Sol-un. È meglio non parlarne troppo, dice Razzi. Controllano tutto, anche cosa viene pubblicato in Italia. Non vorrei, visto che a volte i giornalisti prendono per i fondelli, che alla fine ci ripensassero. Ah, ah, ah, mette un po' già le mani avanti. L'obiettivo è ambizioso, incontrare Kim Jong-un. Qualcuno lo prende in giro alla camera. Se ci riesci ti daranno il Nobel per la pace. Ma io rispondo, non vado cercando queste cose. Si schermisce il senatore, capite? Razzi non cerca il Nobel per la pace. Questa è una notizia. Qualcuno ha ironizzato, ma forse ci voleva proprio Antonio Razzi per cercare di promuovere un progetto che nelle mie intenzioni dovrebbe portare a un riavvicinamento tra i due paesi. E perché no? A una riunificazione, far cadere quel muro lungo il 38esimo parallelo come è caduto quello delle due Germanie nel 1989. Questa è la missione di Antonio Razzi, che tra l'altro in una TV Rete 8, prima abbiamo sentito l'audio, ha detto io conobbi Kim Jong-un, che lui chiama Kim Sol-un, a Berna in università e ci parliamo in tedesco, ma oggi al Corriere dice in realtà non l'ho mai vista a quattro occhi. E il Corriere, ma come? Ha detto in un'intervista di averlo conosciuto, ma no, non sono mai riuscito a vederlo proprio a quattro occhi, non sono mai riuscito a fargli il discorso che volevo, è tutto un po' difficile. E poi conclude Razzi, partito ieri per Pyongyang, è un paese di persone socievoli questa Corea del Nord, persone per bene, se perdi un portafoglio con 100 euro lo ritrovi e ce ne sono 200. Ma, insomma, che i nordcoreani riescano a trovare 100 euro per integrare un portafoglio, portafogli con dentro 100 euro, ecco, questa la vedo un po' difficile. Magari devono pensare a recuperare una ciotola di riso alla fine della giornata per mangiare. Comunque Antonio Razzi è là e poi poi tornerà comunque, e ci racconterà forse il suo viaggio per la pace in Corea del Nord. Quest'altra notizia invece l'ho trovata ed è la prima pagina del Giorno e mi ha molto colpito, perché se vera sicuramente darà adito a polemiche, anche se tutta norma di legge, come succede in Italia, le cose che fanno più polemiche sono tutte a norma stringente di legge. Non sarà processato, questo è il titolo di prima pagina sul Quotidiano Nazionale. Di chi si parla è una anticipazione data per clamorosa dal Quotidiano Nazionale di Mada Kabobo. Ebbene sì, colui che l'11 maggio all'alba a Milano prese a picconate 5 persone uccidendone 3, uccidendo Alessandro Carolè, Daniele Carella, Ermanno Masini, non sarà processato. Così il Quotidiano Nazionale mette in prima pagina e poi a pagina 14 la vicenda di Mada Kabobo. Sono, ripeto, indiscrezioni, ma Anna Giorgi e Agnese Pini raccontano, è abbastanza certo, gli psichiatri che stanno facendo le perizie su Mada Kabobo hanno stabilito che il soggetto è ritenuto incapace di intendere e di volere. L'accertamento psichiatrico, passaggio obbligato per il destino giudiziario di Kabobo, sarà importante capire dalla relazione finale degli esperti se il ghanese sarà reputato in grado di partecipare al giudizio, perché se ritenuto incapace di intendere e volere al momento del fatto verrebbe comunque prosciolto e non finirebbe in carcere, finirebbe in un ospedale giudiziario. Per carità, appunto, è tutto quello che prevede la legge. Non si può giudicare una persona che al momento di compiere il fatto è incapace di intendere e volere. Fece una strage con il piccone, gli psichiatri, Cabobo è pazzo, 3 morti a Milano, il ghanese forse prosciolto per vizio mentale. Prosciolto non vuol dire che andrebbe in giro libero, andrebbe comunque in questi casi messo in una struttura, diciamo così, per curare appunto la malattia mentale. Questo è ciò che scrive in prima pagina il Quotidiano Nazionale. Facendo questo collegamento, ho detto spesso le cose più che fanno più arrabbiare le persone, la sensazione, offendono magari il sentimento comune, avvengono tutte a norma di legge. Ecco, per esempio, tornando alla politica, tutto a norma di legge, tutto a norma di legge, perché lo ha sancito la Corte Costituzionale, dunque l'organo che verifica che le leggi vengano fatte nel rispetto della Costituzione. Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale? Sia il Corriere della Sera che il Giorno vi dedicano una pagina, sul Corriere della Sera Sergio Rizzo, pagina 8, la Consulta salva i governatori coi conti della sanità in rosso. È l'ennesimo emblema, cari signori, che dovete tenere le mani strettissime sul volante prima di leggere questa notizia, che in Italia non si riesce mai a fare nulla, o perché chi scrive le norme non è capace di farle, evidentemente, di scriverle, perché poi c'è la Corte Costituzionale che gliele boccia, oppure perché c'è una Corte Costituzionale che impedisce, c'è un sistema che permette alla Corte Costituzionale di bocciare tutto. Guardatela come volete, sta di fatto che Sergio Rizzo racconta quando si titolava nel 2011, vi ricordate, stretta per i governatori con le mani bucate, un decreto legislativo frutto di un accordo PDL-PD prevedeva lo scioglimento immediato del Consiglio regionale e la rimozione contestuale del governatore in caso di grave dissesto finanziario della sanità. Vi ricordate i buchi della sanità, conti in rosso della sanità? Cade il Consiglio regionale, via il governatore. Ebbene, la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso di tutte le regioni a statuto speciale, cioè Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle regioni Calabria, Lazio, Umbria, Emilia Romagna e Campania, che hanno fatto ricorso contro questo decreto, stabilito incostituzionale dalla Corte Costituzionale, che ha dato loro ragione. Obiettivo: demolire il decreto legislativo, come pure la legge voluta dal governo Monti, uno degli ultimi provvedimenti approvati nella scorsa legislatura per arginare scandali come quello dei fondi del Consiglio regionale del Lazio. E allora Sergio Rizzo scrive, eccolo qui, pochi giorni prima sono salvate le province, adesso incostituzionale questo provvedimento che faceva cadere i governatori con i conti della sanità in rosso, stabiliva anche l'incandidabilità per 10 anni, lo scioglimento del Consiglio regionale. La Consulta salva i governatori, anche su Libero la Consulta salva gli sprechi regionali. Enrico Paoli, la Spending Review di Monti aveva imposto di chiudere, accorpare società partecipate per tagliare il 20% degli oneri, ma anche qui la Corte Costituzionale dice la norma è illegittima. Niente, niente, non cambia nulla. Quando si vuole cambiare nulla, o scrivono le leggi a muzzo e la Corte Costituzionale gliele cassa, oppure c'è una Corte Costituzionale, come dire, oppure non si riesce, non si può scrivere una legge in Italia, un decreto legge che passi il vaglio della Corte Costituzionale. Evidentemente è così, perché non si vuol credere che non sappiano scrivere mai nessun decreto, come quello per le province, come questo per le regioni, non lo sappiano scrivere con delle persone che gli dicono come si scrive per evitare la il fatto che la Corte Costituzionale la bocci. E sta di fatto che il risultato, come la girate, è sempre quello. Non lo dico, sì, non cambia una minchia. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora, la politica, come detto, è una nottata molto complicata e saranno giorni molto molto intensi per quel che succede alla Camera, dove per tutta... Ecco, sentiamo l'audio. Cioè, questa alle 7:31 minuti... perché, come vi siete affrettati a dirci all'interno di alcune commissioni, sta succedendo la Camera, adesso non so chi stia parlando in questo momento, comunque insomma la Camera sta lavorando da tutta notte, perché tra l'altro c'è l'ostruzionismo annunciato da parte del Movimento 5 Stelle, perché tra poco vi spiegheremo come è evidenziato da tutti i giornali. Allora, il primo dato di fatto è che è stato dato il primo sì al decreto del fare, con 427 sì, 167 no alla Camera, la fiducia è stata posta, ma l'ostruzionismo soprattutto di Movimento 5 Stelle, ma anche di SEL e Lega, su 251 ordini del giorno presentati rischia di allungare a dismisura i tempi dei lavori in aula per il voto finale sul provvedimento, che dovrebbe essere previsto per oggi e domani al Senato. Quindi il dato di fatto è che si continua a lavorare in seduta notturna, tutta notte sono andati avanti e stanno continuando anche ora. Letta si è detto soddisfatto, ci sono tutti i dettagli a pagina 2-3 del Sole 24 Ore di quello che è il decreto del fare, per la verità lo trovate a pagina 5, 6 e 7. Sono i dettagli del decreto del fare, che cosa si prevede sull'edilizia privata, per esempio più facili reagibilità ai permessi, gli appalti, le infrastrutture, la Robin Tax, tutti i dettagli, insomma il decreto del fare è analizzato. La spending review, c'è anche la spending review, pensate, nasce il comitato interministeriale permanente che potrà nominare un nuovo commissario straordinario per la spending review, che starà al potere 3 anni. Questo è il concetto. Comunque, credito, semplificazione e fisco, sia la fiducia del decreto del fare, l'articolo trovate a pagina 6 del Sole 24 Ore con Carmine Fotina, al racconto della fiducia al governo Letta sul decreto del fare, anche se l'ostruzionismo di Movimento 5 Stelle se le lega con 251 ordini del giorno rallenta i lavori per il provvedimento, l'approvazione del provvedimento finale. Allora, perché il Movimento 5 Stelle e gli altri fanno ostruzione? Perché è stata messa anche una corsia preferenziale a un disegno di legge costituzionale, il disegno di legge costituzionale 813, quello che vuol lasciare al comitato di 42 parlamentari che nascerà ad ottobre la possibilità di riscrivere la carta costituzionale. È il comitato che dovrà prendere le proposte dei 35 saggi, 7 scribi più uno di raccordo, che daranno tutto a questo comitato che da ottobre riscriverà parte della Costituzione. Allora, è stata data precedenza all'approvazione di questo decreto di legge di questo disegno di legge costituzionale, e questo cosa comporta? Udite, udite, che slitterà in secondo piano e quindi probabilmente non ce la faranno prima della chiusura della Camera, slitterà in autunno il provvedimento sul finanziamento pubblico ai partiti. Ma va? Ma dai? Ma chi l'avrebbe mai detto? Allora, il Movimento 5 Stelle dice, come scrive il Fatto Quotidiano a pagina 4, assalto alla Costituzione, non hanno tempo da perdere, la maggioranza accelera sull'articolo 138, rinviata così la modifica del finanziamento ai partiti. Anche per Libero, slitta la legge, taglia rimborsi, i partiti trovano un'altra scusa. E allora ecco rispuntare il filibustering, cioè questo tentativo in tutti i modi di fare appunto opposizione o ostruzionismo alla Camera. Due quotidiani, la Stampa e Repubblica, dedicano una pagina a questo. Mattia Feltri a pagina 5 della Stampa: il Movimento 5 Stelle rivaluta la vecchia politica, via l'ostruzionismo selvaggio. Scrive Feltri: giovani e in salute come sono, se disponessero dei vecchi regolamenti parlamentari, i deputati a 5 Stelle infrangerebbero ogni record. Il detentore ufficioso, Massimo Teodori, riconobbe con fair play di essere stato battuto da Marco Boato, era il 1981, quando Boato parlò dalle 8 di sera fino alle 14:20 dell'indomani, un primato che forse è mondiale, commentò Boato anni dopo, ringraziando Massimo Teodori che ammise la sconfitta e disse: Boato parlò più di me. La settimana successiva, lo spettacoloso filibustering, i regolamenti parlamentari vennero modificati, togliendo agli onorevoli la facoltà di tenere parola fino a cedimento fisico. E oggi, per inchiodare l'aula 2 o 3 giorni, alle truppe d'opposizione è toccato di federarsi, diciamo così. 250 iscritti a parlare, 5 minuti a testa, totale 1250 minuti, cioè quasi 21 ore. Questo è il tempo per illustrare gli ordini del giorno, i quali, a differenza degli emendamenti, non vincolano l'esecutivo, più le repliche del governo, più le dichiarazioni di voto, si andrà sulle 40 ore. E infatti ieri sera è stato deciso di proseguire i lavori a oltranza. Ecco perché tutta la notte si è lavorato. Anche Sebastiano Messina su Repubblica, pagina 13, nell'aula vuota di Montecitorio il 5 Stelle riscopre il filibustering, no? Questa tecnica che proviene dall'America, proprio di parlare a oltranza. Non batteranno il record del radicale Marco Boato. Ecco, anche Sebastiano Messina la prende da lì, che parlò per 16 ore nella discussione generale, 18 ore e 5 minuti al momento del voto finale. Non eguaglieranno l'inventiva della comunista Edda Fagni, che, esauriti tutti gli argomenti, tirò fuori una poesia di Trilussa, che non vi leggo per evitare sfregi alla lingua. Ma da ieri pomeriggio anche i grillini hanno scoperto l'arma dell'ostruzionismo, ha scovato tutti i cavilli del regolamento e vi si attaccheranno per paralizzare i lavori alla Camera. Vabbè, tra l'altro, a proposito del Movimento 5 Stelle, c'è questo caso. Ieri è uscita sui giornali, Lombardi, Roberta Lombardi, che è l'ex portavoce, ha lasciato la presidenza del gruppo che doveva tenere per qualche mese. Si parlava di una fattura non saldata per un vecchio responsabile della comunicazione tale Caris Vanghetti. In realtà oggi Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, il caso Lombardi e l'ossessione scontrini ai 5 Stelle, parlando con Andrea Cottone, che è il responsabile numero 2 ora dei portavoce numero 2 dei deputati al Movimento 5 Stelle, e all'interno di un articolo dà una notizia che forse non era il caso di dare, questa almeno così viene raccontata. Fabrizio Roncone, parlando di questa vicenda di scontrini, parla con Andrea Cottone del Movimento 5 Stelle, che a un certo punto dice: ma no, ma guardi che non c'entrano i soldi, la Lombardi si è dimessa per ragioni personali. Che personali? Sì, ragioni bellissime, ma personali. Nei prossimi mesi potrebbe non avere più tanto tempo a disposizione. È una notizia stupenda, ma siccome è anche privata, è chiaro che tu ora te la devi dimenticare. E cosa fa Fabrizio Roncone? Scrive sul Corriere della Sera: di fatto si capisce benissimo che Roberta Lombardi sia incinta. Insomma, vabbè, non una notizia che svolta nella politica, e forse una notizia che era meglio rimanesse di Roberta Lombardi, no? Che dite? Comunque, in tutto questo, la politica è un po' paralizzata come provvedimenti parlamentari, e invece Enrico Letta ieri ha parlato ai deputati del PD. Beh, ieri Enrico Letta ha fatto due interventi. Il primo sull'evasione fiscale. Ha detto: il sommerso frena l'Italia. E soprattutto, come racconta Marco Rogari a pagina 12 del Sole 24 Ore, Enrico Letta ha detto: in Italia si pagano troppe tasse perché non tutti le pagano. Io qua so già che sono filosofie diverse, le filosofie sono ben diverse. C'è chi pensa invece che non sia questo il vero motivo, e cioè che se anche tutti pagassero le tasse, lo Stato che farebbe? Si terrebbe più soldi di quelli che incassa. Quindi l'evasione fiscale è una cosa sbagliata, tutti devono pagare. Letta ha detto: chi ha portato i soldi all'estero ora deve capire che il clima internazionale è cambiato, farebbe bene a riportarli in Italia, li beccheremo, in pratica li scoveremo, li andremo a prende, insomma, lotta dura, senza paura, l'evasione fiscale, i soliti slogan. Però poi il concetto che è tramutato nel titolo di pagina 5 del Corriere, tasse alte perché non tutti le pagano, beh, su questo so che ci sono, come sapete, teorie economiche e fiscali ben diverse. C'è chi pensa in realtà che, a fronte di un monte tasse, di un incasso più alto da parte dello Stato, lo Stato cosa farebbe? Spenderebbe di più invece di abbassare le tasse. Ma queste sono teorie economiche su quale non vi voglio annoiare, ognuno ha le sue. Sta di fatto che Enrico Letta la pensa così, il Premier. A proposito di Enrico Letta, ieri ha parlato con i suoi, e cioè quelli del PD, i deputati e senatori del PD. Che cosa ha detto Enrico Letta? sono uscite delle indiscrezioni, perché non era un incontro pubblico, beh, la frase che più significativa che è data su tutti i giornali è: ha chiamato fighetti alcuni del Partito Democratico, basta fare i fighetti soprattutto per ottenere un applauso o magari ottenere la consacrazione su Twitter. Tommaso Labate, a pagina 6 del Corriere, scrive: in realtà li ha chiamati i fighi, li chiama proprio così Enrico Letta, i fighi, quando parla di fronte ai deputati del suo partito. Scandisce: questi mesi dimostrano che pur nella fatica possiamo fare le cose e farle bene. Ma sulle riforme basta giocare a far finta, a darsi un tono su Twitter, a cercare l'applauso facile, a fare i fighi, perché non basta più. Insomma, un Enrico Letta che ha citato anche un discorso di Aldo Moro dicendo: non ci sono alternative a questa maggioranza, né lo è il voto. Ha citato Aldo Moro quando disse: questo è il tempo che ci è dato, vorremmo tutti, insomma, un altro, vivere in tempi migliori, ma questo è il tempo che ci è dato, questo è il tempo in cui viviamo. Così Enrico Letta. Ma nel PD c'è Maretta, i renziani, gira un SMS tra i renziani, secondo il Corriere un SMS anonimo, per Repubblica c'è a pagina 10 addirittura un articolo su questo. L'SMS tra i renziani è: se il PD non istituisce il congresso con la nomina del nuovo segretario entro il 7 novembre, che è la data stabilita dallo statuto, andiamo a carte bollate, cioè ci rivolgiamo al giudice per far rispettare lo statuto. L'allarme dei renziani sul rinvio del congresso sarebbe un golpe, siamo pronti alle carte bollate. Così retroscena di Repubblica: l'apertura sulle regole del congresso Renzi l'ha fatta solo per porre ultimatum. Nel PD vogliono cambiare le regole? Bene. Vogliono cominciare il congresso dei circoli e dei territori? Bene, però Epifani deve convocare le primarie entro il 7 novembre. Non è possibile che il congresso non si tenga. Altrimenti la minaccia di questi dei renziani è addirittura andare dal giudice. Allora, Letta ha detto: non c'è alternativa a questo governo. La penserà così anche Silvio Berlusconi, che attende il 30 luglio la pronuncia della Cassazione? Beh, qui bisogna andare su Libero. Oggi il giornale ovviamente fa meno 5, ieri meno 6, oggi meno 5 la Cassazione. Oggi però la notizia più importante riguardo Silvio Berlusconi proviene da Libero. Franco Bechis, che è il vice direttore di Libero, a pagina 11 racconta: in caso di condanna Silvio pensa alle dimissioni, cioè... intanto gli avvocati gli hanno ordinato non parlare, non dire nulla fino al 30 di luglio. Il Cavaliere però, racconta Libero, ha già pronto la bozza del discorso che seguirà la sentenza della Cassazione. In caso di condanna e di interdizione dei pubblici uffici per un periodo di 5 anni, il governo di Letta non sarà affatto immune dalla bufera. Questa è l'indiscrezione di Libero. Però in realtà Libero poi racconta che un'eventuale condanna tecnicamente non porterebbe a far cambiare la situazione di Silvio Berlusconi subito, perché i precedenti, l'ultimo precedente del 6 ottobre 2010, quando si trovò l'ex presidente della regione Sicilia nella stessa condizione, Giuseppe Drago, condannato in via definitiva per peculato, era la Camera. Pensate che la Cassazione aspettò 6 mesi per notificare la sentenza alla Camera. La sentenza era del 14 maggio 2009, appunto, e Drago si dimise il 6 ottobre del 2010, un anno e 3 mesi dopo. Insomma, questi sono un po' i tempi. Libero fa sapere, insomma, non è che 30 luglio dovesse arrivare la condanna con sentenza di interdizione dei pubblici uffici, il 31 luglio, o qual è, il 1 agosto, non so neanche quanti giorni c'è a luglio. Il 1 agosto Silvio Berlusconi decadrebbe come carica dal Senato. Non è così, ci sono tempi per trasmissione della sentenza, eccetera. Insomma, in autunno. A proposito di Silvio Berlusconi, una chicca così dal giornale: è pronta la villa di Lampedusa. Ma vi ricordate? Sono lampedusano anch'io, preso in giro. Ma come? Uno spot, eccetera. Il giornale, Fabrizio De Feo, a pagina 5, il Cavaliere mantiene le promesse. È pronta la casa a Lampedusa. Tutte le foto con gli interni. Ha fatto tutto l'architetto Gianni Gamondi. Ma che mossa populista, la villa cala francese è pronta, tutti i segreti del restyling. Però non c'è scritto se è stata preparata, ma non c'è scritto se Berlusconi ci andrà a passare le vacanze, che è una notizia succosa, un po' come razzi a Pyongyang. Era la notizia del giorno. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, che dire ancora della politica? Vabbè, il presidente del Senato Pietro Grasso, massimo rispetto per la seconda carica dello Stato, ma io sinceramente quando ho letto oggi su Repubblica dire la legge elettorale è una priorità, beh, sinceramente non lo so, ho detto vabbè dai, tra un giorno vado in vacanza, e quindi perché la legge elettorale è una priorità, siamo in effetti, e domani si concluderà la 12ª settimana decisiva per la riforma elettorale, che peraltro è una 12ª settimana a partire da questa legislatura, ma poi c'è stata la legislatura precedente e quella precedente ancora, se volete. Comunque il deputato del PD, vicepresidente della Camera, Roberto Giachetti, uno che ne fa una battaglia personale da tempo sul cambiare la legge elettorale, intervistato da Francesco Bei su Repubblica, pagina 4, dice: il PD si muova o è resa totale al cavaliere, ammazzare il porcellum ci riprovo, ho raccolto già 40 firme, ne servono altre 10, ma da qui a fine mese conto di raggiungere una cifra politicamente significativa. Firmano deputati di tutti i gruppi, tranne Lega e Fratelli d'Italia. Voglio fare una procedura d'urgenza per cambiare il porcellum. E per tornare dunque al Mattarellum, comunque la legge elettorale è una priorità, questa per il presidente del Senato Piero Grasso. Per quel che riguarda l'economia invece, due notizie. La prima è l'intervista che Flavio Zanonato, ministro dello sviluppo economico, fa al Messaggero. Parla soprattutto di Fiat, ora un tavolo con la Fiat sull'auto, intervistato da Umberto Mancini, trovate l'intervista a pagina 5 del Messaggero. Dice il ministro Zanonato, che ha incontrato recentemente allo stabilimento Fiat di Grugliasco il leader della Fiat, l'amministratore delegato Marchionne: abbiamo parlato a lungo, da quando sono diventato ministro ho iniziato un intenso dialogo con le maggiori realtà produttive del paese, il più importante gruppo industriale, del resto penso che il manifatturiero sia centrale per la ripresa del paese, solo se il nostro manifatturiero supera questa fase di sofferenza, dice Zanonato, rafforzando i suoi fattori il PIL italiano può fare un salto in avanti. Per carità, si tiene lontano dai commenti delle sentenze con sulle relazioni industriali in cui Fiat è stata condannata, non spetta a me, non commento le sentenze, mi sembra però ci sia un punto di partenza da cui iniziare a sbrogliare una matassa, cioè trovo giusta l'indicazione che sia il legislatore, cioè il Parlamento, a farsi carico di innovare in modo positivo il tema della rappresentanza, servono regole certe. Ho avviato i lavori per la costituzione della consulta dell'automotive, auspico vivamente che Fiat decida di parteciparvi, sarà, mi auguro, l'occasione per trovare attraverso il coinvolgimento di tutti gli interlocutori, non solo di Fiat, una strategia comune di rilancio del settore. Vabbè, insomma, un tavolo comune con Fiat sull'auto, anche se si tiene lontano da commenti delle sentenze. Questo è il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato. A proposito di economia, tasse e quant'altro, visto che Letta dice se tutti le pagassero le tasse si pagherebbe meno, beh, oggi La Stampa racconta una storia davvero paradossale, un po' incredibile, di una vicenda avvenuta a Nichelino. L'uomo che finse di morire per non pagare più le tasse. Si fa anche questo in Italia, cari ascoltatori, si finge di morire. Scoperto per un incidente d'auto, il signor Giovanni era un morto che lavorava, guadagnava, abitava una bella casa, guidava pure l'auto, solo che le tasse non le pagava, come ogni buon defunto. A volte è difficile credere a certe storie, eppure il signor Giovanni c'era riuscito, aveva dichiarato la sua morte all'Agenzia delle Entrate e poi aveva continuato la sua bella vita con l'amante, le sue due panetterie, i suoi amici, le vacanze, tutto come prima, senza versare più un euro al fisco. Solo da noi può succedere che una persona possa morire così per 4 lunghissimi anni, fino a quando un banale incidente contro un palo sulla Ford Galaxy dell'amica ha riportato la sua vita da felice defunto a farla sbattere contro la realtà dei dati incrociati, peraltro per una stupida distrazione prima di scappare, perché chiaramente viveva, come dire, non poteva mai essere identificato, prima di scappare aveva perso il numero del suo, cioè aveva perso un biglietto da visita con il suo numero di partita IVA, al che un vigile è andato in comune con quel biglietto, guardate un po' chi è questo signore, e via, dalla partita IVA si risale al codice fiscale che aveva intestate altre attività, poi al suo nome e cognome, è un tipo che forse è morto, o forse evidentemente no. E allora è successo tutto al municipio di Nichelino. All'inizio non capivano, questo signore risultava vivo all'anagrafe ma morto all'agenzia delle entrate. La partita IVA rimandava due panetterie di Beinasco. Allora hanno segnalato il caso all'assessore al bilancio, che da neanche un anno ha tirato su un ufficio con una signora laureata in giurisprudenza che mette su una banca dati per incrociare i dati, e alla fine l'hanno beccato. Nel frattempo questo signor Giovanni aveva lasciato la moglie, due figli, è andata a vivere con l'amante, moldava, 29 anni. Quando è scaduta la patente aveva pensato di non rinnovarla. Insomma, si era costruito tutta una vita alternativa. Banale incidente, è stato beccato. Vabbè, andiamo a chiudere. Ed è il momento per il premio, per l'articolo più inutile scovato sui giornali di oggi. Il premio, la carta costa. Oggi vince, stravince Libero, che per tre quarti di pagina con Alberto Pezzini a pagina 25 ci racconta lo stile cafone, il bimbo italiano, flagello delle vacanze. Oddio, un po' di verità c'è in tutto questo. Comunque Alberto Pezzini si lancia in un peane, un jacuzzi nei confronti dei genitori per i bambini italiani, i più maleducati del mondo. Quando vanno negli alberghi urlano, e racconta Pezzini, il padre italiano mostra a quel punto un atteggiamento inspiegabile di letargia e latitanza colpevole. Il bello del bambino nazionale, il suo optional più prezioso, il suo atu più rifulgente, resta al genitore che non fa nulla. Il padre con garbo e fermezza, uno si attende quando inizia a urlare, per esempio il bambino a cena, al ristorante, si attende che il padre con garbo lo prendesse, lo portasse fuori dalla sala. Invece no, il papà italiano in quel preciso momento subisce una strana metamorfosi antropologica, diventando immobile come una pietra al sole e il suo sguardo di vetro traslucido. E via così racconta il perché delle cafonaggini e dei bambini cafoni, il bimbo italiano, flagello delle vacanze. Ma la carta costa, amici di Libero, com'è possibile un articolo così? Che però non ha tutti i torti, eh? 24 mattino. Siamo qui alle 8 e 16 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, detto che dalle 8:30 parleremo delle polemiche sui 100 anni di Erich Priebke. Ci sarà con noi l'avvocato di Priebke, l'onorevole Emanuele Fiano, come abbiamo annunciato prima. Prima però vogliamo partire da un'iniziativa che è partita da un comune, il comune di Mogliano, in provincia di Treviso, dove un sindaco, il sindaco della Lega, Giovanni Azzolini, che saluto, buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno Alessandro, buongiorno a voi. Allora si è messo in testa che cosa raccogliere le firme, ce ne vogliono 500.000 per fare un referendum, per di fatto, io la dico così, riaprire le case chiuse. Sindaco. Sì, è proprio così. È proprio di fatto così. La possibilità per riaprire quelle che sono le famose case chiuse. Cioè banalmente volete un referendum per abrogare la legge Merlin, quella che ha chiuso le case chiuse. Certo, ecco. Parte della legge Merlin, attenzione, solamente sì. Quegli articoli che vietano l'apertura di case chiuse, di luoghi di tolleranza, di quartieri di tolleranza, e quelli che vietano la possibilità da parte dei sindaci dello Stato di istituire dei veri e propri registri, così, per chi esercita il mestiere più vecchio del mondo. Non certo quegli articoli che sono quelli buoni, cioè quelli che parlano di sfruttamento, che insomma rimangano il sale della legge Berlino. Cioè volete proprio tornare a quel modello lì. Allora, 500.000 firme, io ho letto da qualche parte che da quando lei ha lanciato questa iniziativa ci sono molte persone che stanno chiamando al municipio, cioè altri comuni, altri sindaci, diteci come fare perché lo facciamo, siamo d'accordo. Ci dica un po', è davvero così? Ma guardi, è proprio così, è proprio un fiume in piena, tantissimi cittadini da tutta Italia stanno telefonando in municipio e anche amici sindaci stanno facendo con me questa campagna, hanno accolto questa campagna da tutti i luoghi d'Italia, perché probabilmente, come sottoscritto, sono esasperati dal fenomeno della prostituzione di strada che ogni sera invade le nostre città, e sono anche un fenomeno che è poco decoroso. E oggi Letta, sentivo, dicesse in più interventi che bisogna far pagare le tasse a chi non le paga. Beh, se c'è qualcuno che non paga le tasse in Italia, certamente sono le prostitute. Beh, non essendo un lavoro riconosciuto. Ma lei, Azzolini, che è sindaco di Mogliano, ci dica chi l'ha contattata, come i comuni, per esempio, chi si è fatto vivo di qualcuno? Beh, tutti quelli che sono sull'asse qui di Mogliano, che da Treviso a Venezia c'è questa strada che si chiama il Terraglio, che è frequentata la notte da prostitute, tutti i sindaci, molti miei vicini, da Preganzola a Treviso e ben oltre, su questo che è l'asse della Pontebbana, la statale 13, poi anche da altre parti d'Italia, in provincia di Roma, piuttosto che da Catania, o anche piccolissimi comuni, insomma. Sono tutti interessati a capire come poter mandare avanti questo referendum abrogativo che parte dal basso per la prima volta. Spieghiamolo, perché già, guardi, subito ci arrivano dei messaggi. Mi dica dove si firma. I primi due messaggi è: diteci dove andare a firmare. No, perché la questione è molto anche legata a tecnicismi, a tecnicalità. Ci sono dei tempi ben precisi entro quando bisogna raccogliere le 500.000 firme, sindaco. Certo, l'appello è a tutti i sindaci d'Italia a cui ho scritto: aprite i municipi, perché purtroppo in Italia siamo ancora un po' a livello dei Borboni, bisogna per forza certificare la firma, quindi deve esserci un autenticatore che certifica la firma. Dove si può fare questa firma? Sicuramente nei municipi a cui ho spedito i moduli. Poi se hanno voglia di attivarsi dei volontari, bene, questi devono contattarmi sul sito e ricercare nel proprio territorio un autenticatore, che è praticamente un consigliere comunale, un consigliere regionale, cioè per un fare i famosi banchetti, no? Che ha reso celebri i radicali, per esempio, no? Milan, questa è una cosa assurda in Italia: si riconosce la firma digitale e la si equipara alla firma normale, quindi uno può firmare tanti contratti online, però per la raccolta firme dei referendum dobbiamo ancora andare con il foglio, con la marca da bollo, con l'autenticatore, proprio un ostacolo a fare l'esercizio di quella che viene chiamata democrazia. Però mi faccia capire, sindaco, un cittadino, io cito sempre questa città perché mi piace il nome e poi mi scrivono anche, un cittadino di Forlimpopoli oggi vuole andare a firmare, può andare nel comune, però il comune deve avere ricevuto la sua richiesta e attivare dunque il modulo, cioè non è che uno può andare. Certo, io ho spedito il modulo al comune, che lo può Ma a tutti i comuni, lei l'ha spedito a tutti i comuni italiani? A tutti i comuni italiani, qualche modulo è tornato indietro perché l'ho spedito via email, quindi qualche casella postale di qualche comune era ancora intasata. Quindi diciamo tutti i comuni in teoria sono in questo momento in possesso del modulo, uno può andare al comune e dire: vi è arrivato la comunicazione dal comune di Mogliano per il referendum sulle case chiuse? Quasi tutti, se non è arrivata la comunicazione, prego il cittadino di chiamare subito il comune di Mogliano e spediamo immediatamente il modulo. Vabbè, cosa facciamo? C'è un sito internet facile del comune di Mogliano? C'è un sito internet facile, adesso attiveremo anche tutti quegli strumenti, qua sono un po' un disastro che non ho ancora attivato, da Facebook a Twitter. Rischia di scoppiarle tra le mani questa vicenda. Ma perché lei si è messo in mente? Perché le vede sulle strade, non ne può più, è una questione di ordine pubblico banalmente? Ma più che altro io, i miei cittadini che sono esasperati, vengono a bussare alla porta del sindaco perché la sera appunto questi fenomeni non creano solamente degrado ma soprattutto disagio, insomma la gente è esasperata da come non riesce a vivere chi ha la casa lungo il Terraglio e poi anche chi torna a casa la sera, cioè è tutto poco decoroso e soprattutto molto ipocrita, perché siamo stufi, abbiamo provato a mettere le multe, abbiamo messo i cartelli, abbiamo fatto di tutto, ma il fenomeno soprattutto sulla strada non si sconfigge. Sì, però sai che molti accusano, dice: vabbè, ma è un metodo per mettere la polvere sotto il tappeto, cioè basta che uno non lo veda, lo faccia in una casa, poi quello che c'è, non so, il degrado, chi no, se guardi, ne frega. Non è, secondo me non è assolutamente così, perché allora sono due le vie: o si decide la cosiddetta tolleranza doppio zero, che non è certo la nostra formula, quella in cui impegni tutte le forze dell'ordine a rincorrere le prostitute, oppure si fa quello che si deve fare in un paese democratico, si fa una legge, si regolamenta. Ma è da tanto tempo che l'Italia su questo settore non regolamenta più. La legge Merlin, che era appunto contro lo sfruttamento delle prostitute, ha creato il fenomeno opposto, perché sono uscite dalle case chiuse, si sono riversate in strada e qua veramente vengono sfruttate. Prima perché non c'è controllo, secondo perché quel fiume di denaro nero che corre lungo queste strade va a alimentare altri fenomeni, quale le varie mafie, le chiamiamole così, le società criminose che sfruttano le prostitute, è chiaro. No, questo, voi avete fatto anche un calcolo, poi sai i calcoli su questo, cioè del giro d'affari, di quanto si potrebbe tassando recuperare dal punto di vista proprio di brutali conti. Insomma, l'abbiamo letto, sicuramente non meno di 4 miliardi l'anno potrebbe arrivare come gettito allo Stato. Ah, l'IMU, e pensa l'IMU, anche molto di più. Abbiamo risolto l'IMU. certo, avremmo risolto l'IMU, credo proprio di sì, ma non solo questo. Poi se queste soldini rimanessero nelle casse dei comuni si potrebbe fare anche altro. Però sindaco, ho letto di recente un servizio molto interessante sulla Germania, un paese dove la prostituzione è assolutamente regolamentata, dove si raccontava in realtà che non è finito il problema dello sfruttamento anche nei cosiddetti bordelli, se li vogliamo così, nelle case chiuse, cioè il problema rimane, perché poi sennò c'è il rischio di regolamentare tutto e poi chi è che va a vedere cosa succede effettivamente, come vengono reclutate le persone che si prostituiscono lì. È arduo fare paragoni con altre nazioni, se pensiamo che la Germania non ha neanche una legge sull'abuso edilizio, evidentemente hanno anche un'altra testa loro, quindi probabilmente anche questo fenomeno ha creato effetti diversi. Credo che in Italia controllarla all'interno delle case chiuse con un controllo forte da parte dello Stato, lei pensi che le prostitute non possono neanche essere, fra virgolette, registrate dal fisco perché non hanno una partita IVA, non hanno un'attività, perché la legge Merlin impedisce di fare questo. Ma anche dal punto di vista sanitario, spiace dirlo, se io e lei dobbiamo andare a fare un po' di palestra, dobbiamo avere il certificato, quello di sana e robusta costituzione, sì, è sì. Assurdo, mentre tutto questo non può avvenire perché esercita un mestiere che tutto sommato qualche controllo, a mio avviso, ad averlo. Non è chiaro. Comunque guarda, io sono dentro l'ufficio il sito di Mogliano Veneto, vostro com'è? www.comune.mogliano-veneto.tv.it, è una cosa lunghissima perché il governo ci ha dato questo. www.comune.mogliano-veneto.tv.it. Comunque insomma, sei su Google, un motore di ricerca, cercate Comune di Mogliano Veneto, viene fuori la città di Mogliano Veneto, il cui sindaco ha promosso questo referendum. Che dire, caro sindaco? Cioè, che il termine ultimo per la raccolta delle firme, perché questa è l'Italia, è entro il 30 settembre, quindi abbiamo pochissimo tempo. Quindi in agosto, ma non potevate scegliere un periodo non estivo, no? Era obbligato, pare che abbiamo la Gazzetta Ufficiale della Costituzione ha pubblicato le regole, caro sindaco, che dovete fare. Comunque potete andare anche, diciamo, nei vostri comuni, fatelo come curiosità, poi scriveteci una mail anche a noi, 24mattino@radio24.it, andate al vostro comune se siete interessati e chiedete: vogliamo firmare per il referendum per l'abrogazione di parte della legge Merlin. Il comune di Mogliano Veneto dovrebbe aver spedito a tutti i comuni italiani il modulo per firmare, per apporre la vostra firma e autenticarla. Alessandro, l'ultima cosa, ricordo che in effetti sì, lei ha detto sindaco della Lega Nord, simpatizzante della Lega Nord, c'è anche una mia lista trasversale che mi appoggia, che è il primo partito della città, credo che questa battaglia sia una battaglia trasversale, al di là dei colori politici, insomma noi sindaci siamo sindaci di tutti i cittadini, le esigenze sono un po' di tutte, quindi l'appello è a tutti i sindaci d'Italia, oltre il loro colore politico. No, ma è chiaro, poi se in fondo, se proprio un paese come sta rischiando di fare deve andare a puttane, almeno che ci vada. Battutaccia questa, vabbè, chiaramente sindaco. Comunque la ringrazio per essere stato con noi e in bocca al lupo, seguiremo questa vicenda fino al 30 settembre, la possibilità di firmare, e se volete noi tra 4 minuti dopo la pubblicità, ringrazio Giovanni Azzolini, il sindaco di Mogliano Veneto, Tra 4 minuti parleremo di questa vicenda che sta suscitando polemiche. Anche oggi Giampiero Mughini dedica una pagina su Libero al tema. Mario Cervi, memoria storica, giornalista che questi eventi li ricorda, dedica una pagina sul Giornale. Che cosa? I 100 anni di Erich Priebke, ex capitano dell'SS. Lo ricordate, trovato in Argentina, riportato in Italia perché condannato all'ergastolo in via definitiva per la strage delle fosse ardeatine in Italia, tempi della Seconda Guerra Mondiale. Erich Priebke lunedì prossimo compie 100 anni e questo uno dice vabbè, chi se ne frega. No, ma su questo si è innestata una polemica sui possibili festeggiamenti, sulla possibilità che qualcuno possa rendere omaggio, portare omaggio a Erich Priebke, che rimane in questo momento una persona agli arresti domiciliari nella sua casa La Balduina a Roma, ogni giorno fa una passeggiata. C'è una polemica perché sarebbe comunque controllato e scortato e paghiamo 1 milione di euro l'anno per questa cosa, lo chiederemo tra poco al suo avvocato se sia vero o no. Sta di fatto che per esempio Giampiero Mughini dice ma ridiamolo alla Germania, ma che ce ne frega di tenere Erich Priebke, ci costa anche, rispediamolo in Germania che conviene così a tutti. Sta di fatto che di questo parliamo, delle polemiche che sono scaturite dai festeggiamenti o presunti tali, o comunque dai 100 anni di un personaggio certamente scomodo che abbiamo in Italia, tra 4 minuti. 24 mattino. Siamo qui alle 8:34. Allora, può il compleanno, i 100 anni di una persona suscitare le polemiche, il dibattito che sta suscitando in questo momento sui giornali il compleanno di Erich Priebke? Beh sì, appunto, se questa persona è una persona che è stata condannata in via definitiva dallo Stato italiano per crimini di guerra, cioè per la vicenda della strage delle fosse ardeatine, quando nel 1944 furono giustiziati 335 italiani come rappresaglia dell'attentato di Via Rasella, in cui furono uccisi 33 militari tedeschi. Erich Priebke, che ricordate, fu scovato in Argentina, fu portato in Italia, è stato condannato all'ergastolo, l'ergastolo che sta scontando ai domiciliari a Roma. Lunedì compie 100 anni e si è innestata appunto questa polemica che anche oggi continua sui giornali. Per esempio, segno Mario Cervi, 100 anni di Priebke, se la giustizia dei vincitori è fuori tempo massimo. Così come oggi Libero, Giampiero Mughini è molto esplicito nell'analizzare in maniera spietata la figura di Erich Priebke, ma poi a dire rispediamolo in Germania perché così conviene a tutti. Di questo ne vogliamo parlare, lo facciamo con l'avvocato di Erich Priebke, Paolo Giacchini. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Voglio salutare anche l'onorevole del Partito Democratico Emanuele Fiano. Buongiorno onorevole Fiano, eccoci qua. Buongiorno a voi. Onorevole Fiano, vogliamo ricordare, già stato nostro ospite su questi, non solo su questi temi, ma su questi temi anche una sensibilità personale, è il figlio di Nedo Fiano. Nedo Fiano è sopravvissuto ad Auschwitz, laddove invece ha perso però tutti i componenti della sua famiglia. Allora, avvocato Giacchini, intanto è nato un giallo. So che ieri lei è stato molto duro a dire questo è un linciaggio mediatico, una caccia alle streghe. Perché addirittura la pone così? Certo, Erich Priebke che non è un personaggio che susciti simpatia, diciamo, per usare un eufemismo. Cioè, intanto evidentemente non suscita simpatia a lei, ma suscita simpatia a molta gente, tanto vero che si vuole evitare che qualcuno festeggi il suo compleanno. Questa è la dimostrazione appunto di quello che dicevo, ma non vedo come altro si possa porre una caccia alle streghe, una specie di santa inquisizione a 70 anni dalla fine della guerra nei confronti di una persona che si è voluta trascinare in Italia per processarla, che è stata processata, che si è voluta a tutti i costi condannare all'ergastolo quando i suoi colleghi nel 48, i suoi superiori furono assolti, quando in primo grado anche in Italia era stato assolto, ma riarrestato da un ministro mentre venivano sequestrati in aula i giudici che l'avevano prosciolto. Non vedo come si può definire una vicenda che è una vera e propria processo all'intenzione, nel senso che però non possiamo rifare false notizie di qualche giornalista e di qualche estremista. Però avvocato, qualche estremista? Estremista della comunità ebraica, sì. Cioè la condanna di Priebke è dovuta... No, lei sa, guardi che io sono qua per parlare della festa dei cent'anni. No, però è lei che ha tirato fuori dicendo che non ha sentenza. Questa notizia è una caccia alle streghe che si basa su false notizie che sono state diffuse da giornalisti così molto molto estremisti, politicizzati, che incitano all'odio politico, e qualche estremista della comunità. Però le chiedo, avvocato Giachini, la polemica non è tanto che Priebke possa festeggiare, arriva a 100 anni e può fare quello che vuole. La polemica è data dal fatto che ci sarebbero alcune persone, questo le vorrei chiedere anche a lei, che farà lunedì, che sono intenzionate a festeggiare con lui, a portargli omaggio in qualche modo, a stargli vicino. Questo, noi siamo in un paese democratico, quando Sofri, che è stato condannato per aver ucciso un commissario di polizia, aveva dei sostenitori, e evidentemente Priebke aveva dei sostenitori, quindi non vedo perché. Questo è un paese democratico, sa, non è che c'è gente che pensa, guardi, e infatti è tutto legittimo, è legittimo e si può fare, crea dibattito e crea, suscita sì, ma dibattito, però quando il dibattito poi è scorretto, oltretutto sulla base di notizie false, poi si risponde sulla falsità. Quindi lei lunedì che farà? Ce lo può dire? Cioè, ci sarà questo compleanno festeggiato da qualcuno? Perché l'avvocato Taormina ha detto sì, io andrò, per esempio, alla Zanzara. Ma l'avvocato Taormina, come ho già spiegato varie volte, ha difeso anche gratuitamente il signor Priebke durante le fasi processuali, quindi tra i due c'è un rapporto di stima e di affetto, eccetera. Quindi se l'avvocato Taormina il giorno del compleanno vuole andare a salutare Priebke ne sarebbe molto contento, penso che sia ultra legittimo. Lei ci sarà questa festa di compleanno? Ma quale festa di compleanno? Io non lo so, se lei me ne dà notizie, allora prendo atto da lei. Era una domanda. Ma io non ne ho notizia, come ho già spiegato varie volte, guardi che i permessi del signor Priebke non è che se li dà il tribunale, e oltretutto poi devono essere vagliati dalle autorità di pubblica sicurezza. Io, che sono quello l'addetto a fare queste cose, non ne ho notizia. Se poi il giornalista Caccia del Corriere della Sera o Pacifici mi danno notizia di questo, benissimo, sono contento, mi dicano dov'è questa festa. E lei ci va? Io ci vado senz'altro, perché come lei sa, io ritengo Priebke un perseguitato da queste persone. Allora, onorevole Fiano del Partito Democratico, cosa dà fastidio di questa vicenda? E le chiedo anche, non so se ha già letto Libero, so che state lavorando alla Camera, Mughini, dopo aver fatto un lungo ritratto di Priebke, per il quale non mostra certo la minima empatia o simpatia, dice: ma insomma, ma rispediamolo in Germania, è una persona anche scomoda dal punto di vista dell'immagine, è una persona che ci costa, e su questo magari vorremmo approfondire, 1 milione di euro l'anno, che ci facciamo con la tenere Priebke? Onorevole Fiano. Ma io ho una difficoltà oggettiva a rapportarmi con questi temi. Mi dispiace molto di non poter far partecipare alla trasmissione ai miei nonni o ai miei zii o ai miei cugini o ai miei nipoti, che i colleghi d'arma di Erich Priebke decisero di gasare e bruciare, ma penso anch'io, non ho letto Mughini, ma una frase che disse a suo tempo la compianta Tullia Zevi ai tempi del processo, cioè che ai superstiti o ai figli dei superstiti delle fosse ardeatine interessava che la giustizia avesse il suo corso, che fosse condannato chi i tribunali italiani ritenevano fosse tra i responsabili di quella strage terribile. Poi personalmente non ho nessuna interesse, perché una persona di quell'età vive in un modo piuttosto che in un altro. A me interessa che la giustizia abbia fatto il suo corso. Certo, se dovessi guardare o incontrare o vedere negli occhi un ufficiale nazista condannato da un tribunale militare italiano per essere corresponsabile, perlomeno per alcuni versi, di quella strage terribile, gli direi cosa penso ancora oggi dei nazisti, di coloro che eseguirono quegli ordini, eccetera. Però personalmente considero una delle virtù supreme della democrazia, la giustizia, che poi qualcuno festeggi o meno i 100 anni, mi interessa come cronaca, ma non riguarda l'aspetto della giustizia, che significa individuare un colpevole e combinargli una pena. Questo sì, ma cosa direbbe, visto che dice direi quello che ancora penso dei nazisti oggi, cioè? Che furono dei porci bastardi, e che lui non direttamente, ma i suoi commilitoni sono stati corresponsabili di una tragedia che nel caso della mia famiglia e di molte altre famiglie ebraiche, non solo ebraiche, in Europa ne portiamo ancora i segni. Io non penso di essere una persona sempre oggettiva quando giudico alcuni fatti. Se guardo la vecchiaia di mio padre, le sue cicatrici, i suoi lapsus, i suoi tic, il suo rapporto ancora con quel campo di sterminio dal quale lui sostiene di non essere mai uscito, gli atti di quei bastardi criminali nazisti come Erich Priebke hanno segnato non solo la generazione di mio padre, ma anche la generazione dei loro figli. Hanno inferto un colpo alla civiltà occidentale terrificante. Erich Priebke è tra i colpevoli, in questo caso non dei campi di sterminio lui, mi pare, ma insomma è uno tra i colpevoli di quella strage terrificante delle fosse ardeatine, dove dei civili incolpevoli furono lì portati. Quindi è molto bene che il Tribunale Militare Italiano lo abbia condannato, proprio ovviamente, personalmente. Rabbia nel pensare che Erich Priebke possa passeggiare tranquillamente, andare a fare la spesa o farsi accompagnare non so quali altre attività, o posso provare anche rabbia all'idea che venga festeggiato, perché so che molte altre famiglie di Roma non potranno mai festeggiare per sua responsabilità. Ecco, questo è il punto. Avvocato Giachini, lei non segue, immagino, l'onorevole Fiano, no? Cioè, ma ne percepisce, voglio dire, al di là della questione personale, cioè non le sembra un discorso? Rispondo subito. Sì. Allora, io ho ascoltato attentamente quello che ha detto l'onorevole Fiano e mi sembra una persona così che riesce, al contrario di quello che succede oggi, riesce a guardare con una certa lucidità tutta questa vicenda. Quindi, raramente mi sono trovato a parlare con una persona anche così, lo trovo molto equilibrato. Lucidità, ma le parole che ha detto, no, le ha sentite. Molto equilibrato. Però, attenzione, no, un momento. Allora, io andiamo per gradi, io sono qua per parlare di Erich Priebke, della festa di Erich Priebke, della condanna anche di Erich Priebke, quindi come ha chiarito anche l'onorevole, attenzione, non cominciamo a parlare di campi di sterminio eccetera, perché anche qua l'Italia è un paese che ha una Costituzione che sancisce che la responsabilità è personale, sì. Quindi come ha detto lo stesso onorevole, parliamo dei reati del signor Priebke, certo. Parliamo quindi delle fosse ardeatine. Benissimo, dice l'onorevole che la giustizia è il bene supremo, il resto viene dopo. Benissimo, quindi si è voluto fortemente da parte della comunità ebraica trascinare Priebke in Italia, si è voluto fortemente la sua condanna, addirittura, ripeto, c'è stato il sequestro in aula dei giudici che l'avevano prosciolto qua in Italia. Benissimo, adesso però la legge italiana prevede che il detenuto come Priebke, che è un detenuto modello, che rispetta la legge, fa buona condotta, non è pericoloso socialmente, abbia dei benefici nel tempo, perché la pena per l'articolo 27 di questo paese non è solo punitiva, ma è rieducativa, e soprattutto non può quindi essere deve valere per tutti. Umanità. Sì, però lei, avvocato Giachini, dice no, ma l'onorevole Fiano con molto equilibrio è una persona molto equilibrata, però le parole come macigni anche su Harry Prim che le ha dette. Quali parole? Quali? Ma scusi, ha detto è un colpevole, anche lui. Ma lei non lo sa che Prim è stato condannato all'ergastolo? Certo che lo sappiamo. Allora, come tanti ergastolani, lei pensi che Izzo, che ha ammazzato una persona al Circeo, l'hanno rimesso fuori e mentre era fuori ammazzava due donne e le seppelliva nel giardino, mentre la macchina per vigilare qualcuno stava sotto casa di Priebke, che non può fare male una mosca. Cosa vuole? Priebke è stato condannato? Benissimo, allora i suoi diritti. Tutto qua. Quindi è inutile fare caccia alle streghe. Ma non c'è nessuna caccia alle streghe. La giustizia non ci può servire quando si tratta di condannare, poi quando si tratta di rispettare i diritti umani delle persone non ci serve più la giustizia. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Non c'è nessuna caccia alle streghe, siamo con Emanuele Fiano, onorevole del Partito Democratico, e con l'avvocato di Ariel Priebke, Paolo Giachini. Eccoci qua, sono le 8:48 minuti. Onorevole Fiano, a lei dà fastidio? Perché dice vi dà fastidio comunque vedere l'idea che Ariel Priebke possa fare la spesa, andare in giro? Quando, ci dice l'avvocato Giachini, è stato condannato, quindi come essendo un detenuto di quasi 100 anni deve godere dei benefici come qualsiasi altro detenuto se fosse nella sua stessa condizione. Ma intanto ci sono molte cose che ha detto l'avvocato sulle quali non sono affatto d'accordo. Intanto mi pare che abbia definito Riccardo Pacifici un estremista della comunità ebraica. Sì. Riccardo Pacifici ha fatto il suo dovere sacrosanto difendendo in quei giorni il diritto di decine e decine di famiglie della comunità ebraica, e non solo, perché questo criminale nazista bastardo, uno degli autori di quella strage o di una parte di quella strage, fosse condannato in Italia. Tra l'altro, Fiano, mi scusi se la interrompo, glielo dico perché, avvocato Giachini, lo dico anche a lei, ha ascoltato, siccome so che sta ascoltando, ci ha chiamato come ascoltatore in redazione Riccardo Pacifici, e che tra poco stiamo cercando di ricontattare perché desidera intervenire in diretta, però dica, Fiano. Poi trovo assurdo che l'avvocato Giachini dica, ha usato queste parole che ho fedelmente segnato, che la comunità ebraica ha preteso di riportare in Italia Priebke per il suo processo, ma io penso che la pretesa di giustizia sia un diritto sacrosanto. Siccome coloro che erano stati colpiti dall'atto criminale contro l'umanità si trovavano in Italia, perché i colpiti dalla strage delle fosse ardesine erano italiani, alcuni ebrei, altri no, è del tutto evidente, legittimo, e meno male che ci sono riusciti, anche grazie a Riccardo Pacifici, ci fosse la richiesta di riportare quel criminale sul luogo del delitto e che fosse la giustizia seguisse il suo corso nel luogo dove ciò era questo effettivamente è un punto che vorrei capire. Secondo lei, avvocato Giachini, c'è stata una pressione da parte della comunità ebraica che ha spinto lo Stato italiano a... Ma guardi che era su tutti i telegiornali che il signor Priebke è stato sequestrato in aula, non si è permesso né a Priebke né ai giudicanti che l'avevano prosciolto di uscire dall'aula, e poi alla fine lo stesso Pacifici trattò col ministro Fitch il riarresto e il fatto che non poteva nemmeno andare in un carcere militare, quindi non è un mistero questo. L'hanno fatto arrivare dall'Argentina, diciamo, dove han fatto. Questa è una decisione che l'Argentina, la comunità ebraica per l'estradizione, sì, lo sappiamo. Forse perché si sono sentiti, come dire, Ariel Priebke, che è una persona che per la comunità ebraica ha compiuto qualche misfatto, no? Io citavo solo un fatto di coerenza. È inutile dire adesso, ma in Italia non lo vogliamo più perché è scomodo, l'hanno voluto far venire, l'hanno voluto far condannare, si rispetta la legge. Questa è l'idea di Giampiero Mughini. La legge è che predica dei diritti come tutti gli altri esseri umani, tutto qua. L'articolo 27 della Costituzione è molto chiaro. Se poi si vuole in Italia ottenere dalla legge ciò che si vuole, e poi quando la legge deve rispettare i diritti degli altri non si vuole, allora c'è incoerenza. Ma il dire restituiamo alla Germania è un'idea di Giampiero Mughini, che è un giornalista di Libero. Ma anche dire come ha fatto Pacifici, no, o come dice adesso l'onorevole, a me dà fastidio quando passeggia, l'hanno voluto loro portare a Roma, adesso dopo 20 anni di carcere se lo vedono passeggiare. Ma l'hanno voluto loro, stava in Argentina libero di passeggiare, neanche agli arresti domiciliari. Benissimo, è tutto molto coerente, è stato condannato, sta qui e passeggia dopo 20 anni di detenzione di buona condotta, come passeggiano dopo molto meno, dopo 10 anni gli altri detenuti, come passeggiava Izzo, e nessuno si meravigliava che questo che ha ucciso al Circeo passeggiasse tranquillamente ammassato. Quindi trattare Priebke come tutti. Io allora, siccome ci ha chiamato appunto Riccardo Pacifici, buongiorno, presidente della comunità ebraica di Roma, buongiorno Pacifici. Buongiorno a tutti. So che stava ascoltando, ci ha contattato. Cosa non le è piaciuto, immagino, la definizione estremista della comunità ebraica? Ma io sinceramente, se l'estremista mi arriva da Giachini, ne sono orgoglioso, l'accolgo e lo ringrazio. Io credo che ci troviamo di fronte ad una follia generale. In primo luogo diffido il signor Giachini di dire che c'è stato un sequestro nel tribunale, perché tre diversi giudizi hanno dato torto ai tentativi di estorcere denaro al sottoscritto, lui e il signore Tripp, che ancora devono pagare le spese processuali. Incassano i soldi dai vostri colleghi o da altre persone quando loro sporgono querela e non pagano mai quando loro le sentenze le perdono. Già credo questo definisca bene qual è il quadro. Questa è una vicenda che è finita sui giornali, credo, cioè c'è stata una condanna. Non è solo quello, non è solo quello. Loro devono pagare ancora le spese processuali e non l'hanno fatto. Ancora attendiamo, così possiamo mandare quei soldi ai bambini che sono malati, al Bambin Gesù o in altri ospedali da altre parti. Ma a parte questa storia, allora io credo che noi dobbiamo ricollocare tutta la vicenda in una dimensione diversa da quella del perseguitato in questo caso. Bene dice l'Elefiano, quando lui vede il padre in quella condizione, devo dire che anch'io mi trovo nella stessa condizione, vedere un uomo di 82 anni come mio padre in una condizione molto difficile, rimasto orfano perché i genitori sono rimasti e uccisi ad Auschwitz, anche grazie all'aiuto dei delatori in Italia. Allora, vedere ovviamente un centenario che riesce a camminare per la strada liberamente, questo è un fatto che viola il meccanismo con il quale lui è stato e gli sono stati concessi. Questo però, mi scusi Presidente Pacifici, dal punto di vista umano, però l'avvocato dice che bisognerebbe fare, è una persona diversa, no? È una persona come l'altro. Lui è una persona diversa, non può nemmeno paragonarlo con i criminali del Circeo. Chi ha commesso reati come quelli del signor Erich Priebke, a differenza degli altri, per cui possono anche cadere in prescrizione, lui, avendo aderito ad un'idea malsana, sì, tremenda, per cui tribunali internazionali considerano quello un reato come crimine contro l'umanità, non cade mai in prescrizione. Certo, tant'è e infatti, che non è solo l'Italia ad accanirsi. Pochi giorni fa è uscita una lista di criminali nazisti in Germania, non in Italia, che ancora sono ricercati e probabilmente avranno l'età del signore Erich Priebke, più o meno 5 anni, va bene? Perché ancora sono ricercati. Sì, però e è una persona diversa. Portati davanti ad un mi tribunale. Scusi, Pacifici, è una persona diversa, che vuol dire? Come bisognerebbe trattare Priebke in modo diverso? Sicuramente non lo tratteremo come lui avrebbe trattato i centenari, perché lui l'ideologia come quella a cui ha aderito il signor Erich Priebke portava nei camini di Auschwitz e di Birkenau centenari come il signor Erich Priebke e bambini appena nati. Allora, quella era il tipo di ideologia. Noi ne abbiamo un'altra di etica, ha detto bene citando le parole della Tullia Zevi quando dice: noi non cercavamo vendetta ma giustizia. Appunto. La sentenza ha già chiarito quella che è la condizione, quell'uomo è un criminale. Come tale però, proprio perché è stato condannato per crimini contro l'umanità, nonostante l'età, ricordo che è entrato in carcere che aveva circa 83-84 anni, va bene? In quella condizione lui doveva fare l'ergastolo, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, nessuno di noi ha mai obiettato per quel tipo di comoda scelta, magari l'avessero potuto fare i centenari ebrei nel 43 gli arresti domiciliari, va bene? Nonostante quello così, però vederlo passeggiare per Roma non solo ci dà fastidio, è un fatto che non accetteremo. E questo si fermi è qui, un per... fatto... no, ma certo, si fermi qui però, perché io mi devo fermare anch'io, altrimenti come al solito dico sempre questa frase sforo. Ringrazio tutti, guardi, è una puntata molto delicata, ringrazio l'avvocato Giachini, ringrazio l'onorevole Emanuele Fiano, ringrazio anche Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma, che ci ha chiamato come ascoltatore, ma insomma il cui contributo è stato prezioso. Ci fermiamo qui, lunedì è il compleanno di Priebke, che chissà, intanto noi ci vedremo e ci sentiremo domattina alle 6:30.